Con Luigi Faccini, regista del documentario Radici, Viaggio alle sorgenti della musica popolare italiana, che sarà presentato a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, mercoledì 19 giugno 2019. Luigi, ben trovato. Eh già, è una fortuna, per me sicuramente. Sei un dato di eternità per me, quindi. Allora Luigi, che lavoro è questo? Sai, ho una formazione stradaiola e vengo musicalmente dal blues nero, dal jazz nero dagli anni 60, quando andando a Parigi per vedere i film, i capolavori alla Cinémathèque diretta dall'Langlois, e poi il mezzo tempo lo passavo alla Cinémathèque e mezzo nei negozi che vendevano i vinile originali sulla Rive Gauche, e quindi a un certo punto, cercando il blues, vedevo Alan Lomax, pubblicato dal regista Alan Lomax, e naturalmente era diventata una sigla, perché i nomi erano Son House, Led Belly, Muddy Waters, eccetera. E quindi da allora, ma infatti ho scritto una cosa che si chiama Avevo 20 anni e mangiavo pane Lomax, nel libro che accompagna il DVD che esce in questi giorni. E quindi Lomax è stato il mio Virgilio nell'acquisto dei vinili, che a Parigi, come sai, era la seconda patria del jazz e del blues prima della seconda guerra mondiale. Django Reinhardt e l'Hot Club de France e con Stéphane Crapelli, cioè c'era tutta una cultura che noi avevamo di rimbalzo dentro il proibizionismo fascista, nel tempo in cui non si poteva suonare il jazz, non si potevano americanizzare i nomi, eccetera. E quindi Lomax, a un certo punto, io collezionando, parlando con la gente, Lomax, ah sì, quello è, dico, poi Carpitella, hanno fatto un viaggio insieme, ma che stai a dire? Allora, questa dimenticanza, che però sugli etnomusicologi e la gente, gli antropologi, cioè a un certo livello, sapevano perfettamente chi erano. Però io avevo due vinile pubblicati con la loro firma, tutte e due, folklore italiano, pubblicati dalla Pool nel 1973 in Italia, 16 anni dopo che gli stessi dischi erano stati pubblicati in America per la Columbia. E allora a un certo punto ho detto, ma ecco perché la gente non lo sa. Questi due hanno fatto un lavoro meraviglioso, enorme, nel 1954-55, facendo un viaggio di un anno quasi in Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, al Friuli, girando tutta l'Italia, registrando tutto quello che era la persistenza della musica popolare italiana, che stava per essere cancellata dalle migrazioni dal nord al sud, perché c'era stato il cambio del modello economico, cioè che è finito poi nel boom economico degli anni 60. In tutti i meridionali che sono andati al nord, in realtà stavano per lasciare a casa tutta questa eredità popolare, ma contemporaneamente molto colta, perché insomma la radice della musica italiana ancora oggi è quella. E questi due hanno salvato, registrando non si sa quante migliaia di pezzi, anche tantissime fotografie, perché Lomax era anche un fotografo prodigioso, ma veramente un genio, anche un poeta, era oltre che un antropologo. Sai, andava in giro con un Magnacord T6, che era una specie di carmaglione enorme, pesantissimo, dentro un pulmino Volkswagen, il mitico Bulli, e giravano in due su questo pulmino, guidando tutte e due, facendo i fonici tutte e due, arrivando nei paesi di notte, andando a agganciare la gente, poi registrando l'indomani. Insomma, una epopea che, se mi fosse capitata a me, meriterei la persona più fortunata del mondo. Quindi questi due fanno questo viaggio, salvano tutto questo patrimonio, e allora io ho voluto fare un'operazione doppia: da un lato rimetterli al centro dell'attenzione, dall'altro celebrare la loro amicizia. Cioè, uno che ha 39 anni, uno che ce n'ha 30, vanno in giro così, da soli, in tutta Italia praticamente, e senza che nessuno gliel'avesse chiesto, fanno proprio il lavoro di ricerca vera sul campo, proprio live. E terza cosa, poi smentire le minimizzazioni che da molte parti, ah sì, vabbè, si hanno fatto quella cosa, ma no, 2 giorni, 3 giorni, 15 giorni, leggende metropolitane, quindi anche un po' di incazzatura mia per dire no, non è possibile, cioè le radici della cultura popolare italiana sono lì dentro. E poi l'ho fatto chiedendomi, ma come mai che nel 1956, un anno dopo il viaggio, Lomax pubblica in America con la Columbia questi due vinile, e per pubblicarli in Italia passano quasi 17 anni e non solo con una grande casa discografica, potremmo dire i Dischi del Sole o Albatros, che erano le case discografiche classiche di tutto il folk revival italiano che si fa negli anni 60, che nasce da quella ricerca di Lomas e Carpitella, ma da una piccola casa editrice che aveva come capo, diciamo, un cantautore degli anni 60, gentile, aggraziato, che si chiamava Gianni Meccia, che aveva avuto successo con una canzoncina che si chiama Il Pullover che tu hai dato a me. E quest'uomo pubblica questi due dischi e io mi sono chiesto, ma perché? Chi è che ha impedito che per 16 anni quel risultato di quella ricerca non viene pubblicato? E viene pubblicato ormai quando il folk revival italiano, non dico che sia spento, ma comunque ha già celebrato un altro rito di ricerca e di penetrazione culturale della musica popolare. E allora ho voluto fare il film, ne ho parlato con il Luce Cinecittà, con Roberto Cicutta evidentemente, con Marina avevamo già girato diverse cose in Sardegna, perché partendo da un ascolto di Launeddas in auditorium, Marina è andata fuori di testa, dice che strumento è questo? Dico, sono Launeddas, in Egitto e nel Medio Oriente si chiama Argul, nella cultura etrusca, greca e romana si chiamano Aulos, avevano due canne, qui ne hanno tre. E su quella cosa, sul suono delle Launeddas, noi siamo partiti, siamo andati tre volte in Sardegna, poi siamo andati a Genova, sulle cave di marmo, siamo andati in Sicilia, siamo andati in Puglia, e quindi abbiamo fatto un'operazione che è incominciata nel 2017, oggi vede la luce con il film che viene presentato in anteprima mondiale. Il cofanetto non ha la forma A5 del DVD solito, è una forma più allungata, giocata tutto sul bianco e nero, c'è un cofanetto, edizione speciale, detto libro più DVD, dove il libro, quasi 100 pagine, contiene dei pezzi molto autorevoli, uno dello storico Giovanni De Luna, che è un nostro grande amico, ma che è lo storico che è. C'è un'antropologa che è l'Emilia De Simoni, che tra l'altro ci ha messo a disposizione un inedito assoluto ritrovato in un fondo di magazzino, che è un Lomax che nel 1991, per celebrare, perché Carpitella era morto l'anno prima, nel 90, la loro amicizia e questo viaggio, lo riracconta con esemplificazioni di immagini, di suoni eccetera, e io ho potuto usare questo Lomax che parla in inglese naturalmente, che racconta di questa amicizia loro, di come è stata la loro collaborazione, l'assenza di litigi per esempio, la complementarità, l'amicizia proprio, e quindi in questo senso credo di aver rimesso un film di 75 minuti, non è una rupina così tanto fatta con la mano sinistra, con del bellissimo materiale di repertorio dell'Istituto Luce. Siamo andati a pescare della roba, pensa, girata negli anni 30, prima ancora del cinema sonoro, con delle cose che poi abbiamo sonorizzato con le musiche registrate da Lomas e Carpitella, ma su immagini che erano mute, ritrovate appunto, è un sedimento di antropologia visiva di cui Luce è ricchissimo. E quindi insomma un'operazione che ci è voluto tanto tempo per farla, molta fatica, molto piacere, e devo dire che ho avuto così un collaboratore che così gli ho detto, guarda che io sono un vecchio marpione, un bucaniere del cinema e del montaggio, io ho montato da solo il mio film Giamaica, ma anche un altro film documentario anni prima che si chiama San Salvo, provincia di Sydney, d'Italia, per cui ho avuto un premio di ricerca antropologica per questo film. Abbiamo fatto i tagli, lui, il montatore si chiama Angelo Musciagna, viene dalla musica e ha fatto il percussionista, e abbiamo fatto i tagli di montaggio battendo il piede per terra, perfino cantando gli attacchi di montaggio. Questa è un'esperienza che non ho mai fatto e che rimane proprio, come dire, un highlight nella mia vita, appunto, davvero di veterano del cinema e della ricerca. Okay. E quindi è stata un'esperienza molto importante per me e per Marina, perché il film poi dà un'idea di Marina Piperno, un film del Luigi Faccini, eccetera, eccetera. C'è stato dentro il contributo forte di Ambrogio Sparagna, ma c'è un castone meraviglioso in Sardegna con i tenores di Neonelli e di Tonino Cau, che aveva scritto lui un testo in versi, anche in conversi sardi, su Gramsci, e mi sono trovato improvvisamente in Sardegna in un'anteprima di un concerto, e appunto il tenore si è cantato in sardo in onore di Gramsci, e in questo concerto chi c'è, uno strambo così che suonava la darbuca, dico che cazzo c'entra con la darbuca, ed era il nepote di Gramsci, infatti si chiama Antonio Gramsci Junior, figlio di uno dei figli di Gramsci, che veniva da Mosca. E quindi quando vai dentro le cose e poi fai ricerca, succedono cose meravigliose. Mi sono trovato a Oristano la notte di Capodanno con, mangiavamo in un ristorantino, tanto uscivo fuori, c'era un palchetto che suonano e ballano. Improvvisamente esco, 2000 persone nella piazza di Oristano, la piazza Eleonora d'Arborea, a cerchi concentrici, 8 cerchi contati, concentrici, da uno strettissimo a Mangia via via largo, che ballavano il ballo tondo. Beh, guarda, io ero fuori, non potevo stare altro che fuori perché era un campo lungo, ho alzato le braccia, sono stato 10 minuti con le braccia alzate, con la telecamera lassù in cima, dico, mo casco, e ho filmato questo ballo tondo come non si è visto mai, con questa cadenza ipnotica che c'ha il ballo tondo, e tanto poi dei saltelli, con l'idea che mi è balenata lì del cerchio, come in tutte le realtà tribali, come forma magica, perché il cerchio è tutte le realtà tribali in tutto il mondo, la musica di balla è il cerchio, che è la figura che consolida la comunità e che collega e che giustifica lo stare insieme. Quindi una serie di esperienze live, così, che devo a Lomez e Carpitella. Bene. E quindi in questo senso con Marina siamo assolutamente felici, dobbiamo a Roberto Cicuto l'attenzione. Che non sapeva nulla di Lomax Serpitella, però ha domandato in giro, ha capito che poteva rischiare e quindi siamo andati avanti, e quindi c'è questo film e siamo contenti. Ecco. Abbiamo recuperato, abbiamo tappato un buco, una voragine della cultura popolare italiana con questo film, e ci auguriamo che adesso vada nelle università, nei dipartimenti, nelle scuole, si faccia un discorso sui giovani. Perché poi la musica popolare ha una caratteristica di fondo, serve a far ballare la gente, serve a tenere legate le comunità, non soltanto musica in quanto tale, per una solo, no, c'è il ballo come scopo, portare la gente in piazza che balla, si dà la mano, si tocca, si abbraccia, e quindi c'è questo elemento che forse abbiamo perduto, no? E allora ricordiamo la proiezione a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, mercoledì 19 giugno 2019, del film Radici, viaggio alle sorgenti della musica popolare italiana. Un saluto e un ringraziamento al regista Luigi Faccini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Luigi. Anche a te, anche a voi. Ciao. Ciao.